si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare. Buongiorno da Alessio Maurizi, staremo insieme fino alle 10. Se volete interagire fin da subito con noi in tempo reale, vi ricordo i nostri contatti, i nostri social, la pagina Facebook Si può fare trattino Radio 24, l'account su Twitter è chiocciola Si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi. Un'occhiata alle prime pagine, anche all'interno dei giornali di oggi, naturalmente come sempre nella prima mezz'ora fino al giornale radio delle 8, poi cominceremo con le nostre buone notizie, i nostri approfondimenti. Oggi parleremo, ve lo dico subito, di una storia che ha coinvolto, interessato, toccato forse anche il cuore degli italiani, emozionato anche per il nome dell'azienda coinvolta, un'azienda storica, la Ideal Standard, rilevata da un gruppo di lavoratori che ha fondato una cooperativa, Workers Buyout. È una tendenza che si sta affermando sempre di più, lavoratori che cercano di salvare le loro aziende in crisi assumendosi, diciamo, il rischio imprenditoriale e fondando appunto delle cooperative. È stato firmato un accordo proprio in settimana al Ministero dello Sviluppo e così, diciamo, questo è un punto di ripartenza, un migliaio di posti di lavoro che si salverebbero. Ci chiediamo, vi chiediamo se questo può essere anche un modello per il lavoro nel nostro paese, un modello per salvare posti di lavoro. Questo dopo il giornale radio delle 8. Adesso, come detto, iniziamo e andiamo sul giornale di oggi. Perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora, cosa c'è sulle prime pagine dei giornali di oggi? I titoli principali sono dedicati al vertice a Mosca tra Putin e Hollande e la Merkel per trovare una soluzione per l'Ucraina. Non si capisce bene l'esito di questo vertice, molti parlano di un esito deludente, qualcuno dice insomma invece potrebbe essere la volta buona, e oggi c'è un secondo round con il leader ucraino Poroshenko e vedremo. Poi commenti sul cambio di casacca da parte di alcuni esponenti di Scelta Civica che entrano dentro il Partito Democratico, la maggioranza di Renzi che non cambia ma si rafforza il PD, partito omnibus, scrivono alcuni giornali, e Renzi che manda a dire a Berlusconi, a Forza Italia, abbiamo i numeri per governare anche senza di voi. Il Corriere della Sera, oltre a tutto questo, a centropagina mette una foto notizia, Siria, la Casa Bianca che dice non ci sono prove, l'ISIS che a proposito dei raid giordani dice uccisa un'americana, è una storia fotocopia rispetto a quella di Greta e Vanessa, se volete. L'ISIS ha affermato che raid aerei giordani avrebbero ucciso in Siria Kayla Jean Mueller, cooperante americana 26enne rapita nel 2013. La Casa Bianca, che non aveva mai rivelato il nome della giovane, si dice preoccupata ma non conferma la morte dell'ostaggio. Storia fotocopia di quella di Greta e Vanessa. Vedremo più avanti la biografia di questa giovane americana andata in Siria all'epoca in cui il mondo si indignava contro Assad e non c'era ancora l'ISIS, e appunto la notizia è che in questa recrudescenza, inasprimento delle tensioni militari tra la Giordania e l'ISIS al confine con l'Iraq, ci sia finita di mezzo anche questa cooperante uccisa dai bombardamenti giordani, ma la notizia appunto, come dice il Corriere, è al momento non confermata, smentita dalla Giordania e non confermata dall'America. Poi però titoli principali sono quelli che dicevamo prima. Renzi prova a fare da solo, scrive il Corriere, abbiamo i numeri senza Forza Italia. Scelta Civica, 8 entrano nel PD, l'incognita del nuovo centrodestra. Andiamo a vedere all'interno del Corriere di chi stiamo parlando. Intanto la grande fuga, erano 69 tra deputati e senatori nel 2013. Dentro Scelta Civica sono rimasti in 25. Chi sono gli ultimi che hanno abbandonato il partito fondato da Mario Monti? Ilaria Borletti Buitoni, 60 anni, sottosegretaria ai beni culturali. Carlo Calenda, viceministro dello sviluppo economico, 41 anni. Linda Lanzillotta, vecchia conoscenza della politica italiana, senatrice, 67 anni, prima della Margherita, poi del PD. Alessandro Maran, già eletto alla Camera con i DS e poi il PD, il ministro di istruzione Stefania Giannini, Pietro Ichino, altra vecchia, vecchissima, ultra vecchissima, vecchierrima conoscenza, pensate che Ichino è in Parlamento credo dal 1980 o giù di lì, oltre 30 anni, prima come indipendente del PC, poi nel PD, adesso in Scelta Civica, adesso di nuovo nel PD, Irene Tinagli, quarantenne deputata già nel coordinamento politico del PD, e poi Gianluca Sesta, un altro ex Margherita PD. Le accuse, vogliamo leggerle, sì, di Bomba 6 a questi, diciamo, che vengono visti come dei traditori. Alla vigilia, tra l'altro, del congresso di Scelta Civica, in effetti questa decisione è un po' curiosa. Noi abbiamo appoggiato, dice Alberto Bomba 6, anche lui imprenditore, ex vicepresidente di Confindustria, abbiamo appoggiato il governo Renzi in modo trasparente. Lui l'altra sera in TV cosa ha detto? Ha detto: non so se Scelta Civica esista ancora. Renzi ha un atteggiamento guascone, sprezzante nei confronti delle rappresentanze politiche minori, delega ogni riforma a una maggioranza burlesca. Poi a proposito di questi colleghi, insomma, che cosa ne pensa di questi colleghi, dice Bomba 6, molti di loro sono politici di professione, ha ragione, spero non siano condizionati da uno spirito conservatore anche della loro posizione, li stimo e mi rifiuto di pensare che ci sia opportunismo. Oggi fra due giorni c'è il congresso di Scelta Civica, è un progetto da rilanciare anche se siamo attorno all'1% nei sondaggi, dice Bomba 6. Penso che dobbiamo rinegoziare la nostra presenza nella maggioranza di governo. Il problema è, dal punto di vista dei contenuti, secondo Bomba 6, la disoccupazione. Renzi ha fatto molto per il lavoro, ma se si vuol mantenere l'Italia un paese industrializzato, si deve ridurre il costo del lavoro e quello dell'energia, vanno defiscalizzate le nuove attività industriali. A dire il vero, il costo dell'energia è stato, sta diminuendo, un po' per il calo del petrolio, un po', dice il governo, anche per il taglia bollette. È proprio di ieri la notizia che il Ministero dello Sviluppo valuta in quasi 3 miliardi di euro il risparmio per quest'anno per famiglie e imprese sul fronte della bolletta energetica. Sempre sul Corriere, un altro, diciamo, critico fermo, per non dire feroce, del renzismo, Pippo Civati, che è in uscita con il suo libro Il trasformismo con tempismo cronometrico. Pippo Civati firma Il trasformista, la politica all'epoca della metamorfosi, un pamphlet di 100 pagine in libreria il 19 febbraio, in cui il più antagonista dei deputati del PD manda in pezzi lo specchio di Narciso del premier attualmente in carica, così lo chiama Civati, per smascherarne i lapsus, i paradossi, i ribaltamenti prospettici e denunciarne i limiti, l'incoerenza come manifesto politico, la provocazione come metodo per distrarre dal merito. Questa era una notazione. Repubblica, a proposito del tema ucraino, Ucraina, Putin tratta con Merkel e Hollande, spiragli per l'intesa. Qua abbiamo una versione, diciamo, ottimistica di quello che di questo vertice. Mosca, scrive il corrispondente Lombarda Ozzi, i toni e le espressioni erano proprio quelli dell'ultimo tentativo, tutti e tre con l'aria tesa e preoccupata nella sala del caminetto del Cremlino. I due leader europei, Hollande e Merkel, che con la loro iniziativa avrebbero irritato non pochi falchi del congresso americano, lo hanno ripetuto ossessivamente a Putin. Occorre un segnale di buona volontà che fermi l'invio di armi degli Stati Uniti all'Ucraina, perché questo è il tema forte adesso da affermare, l'invio di armi americane all'Ucraina e il rischio quindi di una che si affrontino direttamente gli Stati Uniti e la Russia. Putin ha ribattuto punto per punto, ha spiegato le ragioni della Russia, ha negato di aver mai inviato truppe nell'Ucraina dell'Est. A quel che si sa di questo incontro a porte chiusissime, la questione delle armi americane all'Ucraina sarebbe scongiurata per il momento. Un incontro andato avanti per diverse ore fino a notte. L'effetto, scrive il corrispondente di Repubblica da Mosca, si vedrà oggi stesso a Mosca, a Monaco di Baviera. A Mosca c'erano ieri, oggi saranno a Monaco di Baviera. Merkel e Hollande incontreranno nuovamente Poroshenko, ma anche il segretario di Stato americano John Kerry, e si vedrà se tutti i lati di questo puzzle in qualche modo combaciano oppure no, e quali saranno i risultati. un'occhiata invece alla prima pagina del Sole 24 Ore, che scrive così: parte la corsa a ostacoli per il 7.30 precompilato. Un'altra notizia dunque: tempi stretti per l'invio dei dati sui redditi da parte dei datori di lavoro. C'è anche il nodo della privacy da sciogliere. L'operazione riguarderà 20 milioni di dipendenti e pensionati. Pronto, scrive il Sole, il debutto del 7.30 precompilato che interesserà 20 milioni di contribuenti. Le entrate metteranno online il modello dal 15 di aprile, ma restano problemi da risolvere che sono la corsa contro il tempo per i produttori di software, imprese e professionisti per garantire la trasmissione dei dati entro il 9 di marzo, e si apre anche la questione di tutti questi dati che viaggiano, il nodo della privacy. Questo diciamo per quanto riguarda il tema delle dichiarazioni precompilate. Ci fermiamo un attimo, facciamo una breve pausa per il traffico e torniamo subito dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, di nuovo torniamo sui giornali di oggi e torniamo su Repubblica per un'altra notizia, che è questa: la protesta degli allevatori, la rivolta del latte, mucche in piazza, sempre più poveri, le stalle chiudono. Cosa succede? Il latte costa meno dell'acqua, aiutateci. Al Campidoglio c'era Carina, pura razza frisona, 650 kg di peso e molta pazienza. Si è lasciata mungere questa mucca da tre ministri: Poletti, Lorenzin e Galletti, lavoro, salute e ambiente, più un sindaco, Marino, più un presidente di regione, Zingaretti, tutti lì diciamo a fare bella figura. Poi diciamo, vediamo se le richieste degli allevatori approderanno a qualcosa, altrimenti è tutta una messa in scena. Questo è il mio personalissimo commento. Gli allevatori hanno tutte le ragioni del mondo, sentite: da Torino a Bologna, da Firenze a Napoli, le piazze d'Italia ieri sono state invase da loro. Gli allevatori protestano perché il prezzo che ricevono per un litro di latte crudo è drammaticamente basso, 35 centesimi, informa la Coldiretti, più o meno come una bottiglia d'acqua all'ipermercato. Un compenso in caduta verticale, il 20% in meno solo rispetto al 2013, che fa sprofondare i bilanci delle aziende e l'occupazione. Dall'inizio della crisi si sono persi 32.000 posti di lavoro, 3 cartoni su 4 arrivano dall'estero e prodotti di dubbia provenienza spesso finiscono in mozzarella e formaggi di bassa qualità. Ma il punto è che il peggio deve ancora arrivare, perché il 31 marzo, quando finirà il regime europeo delle quote latte, la produzione aumenterà del 5%, ma i listini andranno ancora più giù. Cioè, il paradosso è che le quote latte, contro cui una parte degli allevatori italiani ha a lungo protestato accumulando anche multe, facendo pagare multa all'Italia su questo, adesso scopriamo che era un meccanismo che in qualche modo invece tutelava addirittura il nostro Made in Italy, quote che sono state giudicate basse, troppo basse di produzione per il nostro settore diciamo del latte. Però adesso, senza questo regime di quote, in un'Europa allargata, la competizione con i paesi del nord Europa che producono a più basso costo e prodotti però, dice la Coldiretti, di più bassa qualità, rischiano di mettere in crisi il nostro settore del latte, che invece produce formaggi per esempio di altissima qualità e anche un latte buono. Allora loro cosa chiedono? Non chiedono dazi o misure difensive, ma chiedono una misura aggressiva che credo i consumatori apprezzerebbero, quello della tracciabilità, la trasparenza delle etichette. Dicono: va bene il mercato aperto, ognuno faccia quello che gli pare, però scriviamo nelle etichette prodotto con latte italiano o addirittura la zona di provenienza del latte su tutti i formaggi, su tutti i prodotti derivati dal latte, in modo che i consumatori sappiano, scelgano, e quindi diciamo la qualità italiana, che indubbiamente c'è, si possa salvare. La stampa invece ha un ritratto di Kayla, la ragazza americana di cui ieri l'ISIS ha detto è stata uccisa in un bombardamento giordano al confine con l'Iraq, un bombardamento rivolto contro l'ISIS naturalmente. Scrive La Stampa, ho detto una storia, fotocopia, la biografia almeno, di questa ragazza, di Greta e Vanessa, le due ragazze italiane. Kyla, la ragazza dell'Arizona che voleva salvare i più deboli, lavorava per una ONG, è stata presa ad Aleppo nell'agosto del 2013. Il suo nome è stato reso pubblico per la prima volta solo ieri dagli islamisti. Di lei si sono perse le tracce nell'agosto del 2013, circa due anni dopo dal video ancora reperibile su YouTube, quindi nel 2011, nel quale aderiva alla campagna Syrian Sit-In. Era il primo passo verso la scelta di recarsi nei territori tra Turchia e Siria per dare un contributo materiale a quella campagna tra le file della ONG Support to Life. Ricordiamoci che quegli anni sono gli anni nei quali insomma, sui giornali dei paesi occidentali campeggiava un giorno sì e l'altro pure titoli sul regime di Assad che usava i gas contro i civili, che faceva carneficina degli oppositori, dei ribelli, e quindi in diverse parti insomma del mondo si parlava di intervenire in Siria. Qualcuno è andato anche in missioni di pace, o comunque in missioni non di pace ma di supporto ai ribelli siriani, che in quel momento erano considerati, diciamo, dei martiri della libertà e della democrazia. E così ha fatto Kyla, così fecero anche Greta e Vanessa. Poi dopo abbiamo scoperto, ma lo ha scoperto anche l'America di Obama, che tra questi ribelli, diciamo, c'era anche l'ISIS, cioè c'era anche l'esercito islamico e quindi degli integralisti che poi hanno dimostrato tutta la loro efferatezza, la loro violenza, eccetera eccetera. Questa è la storia di Kyla, però i dubbi sono sul fatto che non è stato diffuso neanche una foto, un video su questa presunta morte, cosa che normalmente l'ISIS fa, e quindi diciamo le speranze che lei sia ancora viva ci sono. Abbandoniamo La Stampa e torniamo agli argomenti di politica italiana con un altro punto di vista, quello del Giornale, che scrive a proposito del passaggio degli onorevoli di Scelta Civica al PD: è truffa, Renzi compra i voti. Giochi sporchi, il PD acquista i parlamentari di Monti e completa il golpe di Napolitano. Ecco la vera storia del piano partito da lontano per eliminare Berlusconi. È l'ultima fase del golpe del duo Napolitano-Monti, scrive il Giornale, che poi dice, insomma, come i giornali amici, il Corriere, La Stampa e Repubblica usino toni soft per commentare queste notizie. C'è da dire che c'è una differenza, ecco, rispetto, perché qui scrivono, no, due pesi e due misure. Quando il Cavaliere ampliò la maggioranza parlarono di mercato delle vacche. In questo caso la maggioranza del PD non cambia, del governo non cambia, perché i senatori di Scelta Civica hanno sempre votato per il governo Renzi, l'hanno sempre sostenuto fin dall'inizio, fanno parte della maggioranza, infatti questi senatori sono anche ministri come il ministro Giannini o viceministri come Calenda, quindi non c'è un mercato dei voti, dei seggi in Parlamento in questo momento, c'è un partito democratico che qualcuno definisce omnibus, questo sì, che si sta allargando. Infatti l'altro titolo del Giornale: Renzi compra i montiani, il PD diventa un omnibus, cioè è il PD che si sta trasformando, il famoso partito della nazione, mettendo anche in difficoltà la sinistra, per esempio, del PD. Ci sono delle interviste a Bersani, ad altri oggi, che un po' preoccupati per questo, diciamo, ingresso di centristi. Non cambia, lo ripeto, però la maggioranza, quindi non c'è nessun mercato delle vacche. Il Fatto Quotidiano scrive: Tele Nazareno, Renzi tiene in pugno Berlusconi e De Benedetti, canone per le frequenze TV. Nel 2014 l'autorità delle comunicazioni fa uno sconto di 40 milioni di euro in 4 anni a Mediaset. E Stanga, Gruppo Espresso e Telecom con un aggravio di 47 milioni. Ora il Premier azzera tutto e deve decidere chi favorire, altrimenti ci rimette il tesoro. Direi che siamo in chiusura, ci fermiamo. C'è il Giornale Radio, torniamo subito dopo, apriremo il numero verde 800 24 0024. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, bass, bass. ascoltatori, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti, buon sabato. Allora, di nuovo benvenuti, 800 24 00 24, aspettiamo come sempre i vostri interventi, cari ascoltatori, mi raccomando, a commentare quello che avete sentito, la rassegna stampa, adesso le nostre buone notizie, gli approfondimenti di oggi. Tra poco conosceremo la bella storia di questa cooperativa Workers Buyout, la tendenza, lavoratori che diciamo rilevano le aziende in crisi assumendosi il rischio imprenditoriale e portano avanti i posti di lavoro, il sogno imprenditoriale. In questo caso è avvenuto alla Ideal Standard, chissà che possa essere un modello anche proprio per così occupazionale per il futuro, magari di nicchia, ma in tanti casi sta succedendo in Italia. E allora conosceremo questi lavoratori tra poco. Poi Ideal Standard è una delle prime parole che si guardano al mattino, di solito quando si va in bagno, è proprio un classico, la maggior parte dei bagni in Italia, direi, almeno sì. È Ideal Standard, quindi anche senza parlare dico della tazza del cesso, dico anche proprio il lavandino, è proprio tipo la prima parola, secondo me è una delle prime parole che si impara anche da bambini. Esattamente, forse. Esattamente. Vedremo quali parti dell'azienda porteranno avanti, sono state rilevate da questa cooperativa 800 24 00 24. Poi ieri c'è stata questa manifestazione degli allevatori italiani e delle mucche da latte che hanno sollevato questa questione, no? Del prezzo del latte che è troppo basso, e abbiamo anche scoperto una cosa incredibile, cioè dopo aver sentito per anni parlare delle quote latte come di un problema, quote latte, producevamo troppo poco per i nostri potenziali, quindi allevatori che hanno sforato queste quote latte e l'Italia che ha pagato multe anche salate, adesso abbiamo scoperto che quando queste quote latte finiranno il 31 di marzo sono dolori, sono guai. Perché? Perché te lo dico io. Perché va a finire che chiudono un sacco di stalle. Esatto. Certo. Cioè, prima si sono lamentati tantissimo di queste quote latte e adesso che le tolgono. Il problema è che queste quote quantomeno garantivano un livello di produzione stabile. Adesso sarà mercato libero e quindi il latte e soprattutto i suoi derivati semilavorati con cui si fanno mozzarelle e formaggi, però diciamolo, lo dice la Coldiretti, ma ci associamo, di bassa qualità, che invadono il mercato italiano, spesso ci si fanno le pizze per esempio, perché il latte arriverà da altri paesi. Esatto, costa meno perché è di qualità più bassa, magari in qualche caso i produttori finlandesi riescono a produrre con costi più bassi, in altri casi è proprio la qualità che è più bassa. Allora la cosa bella, e per cui vi raccontiamo questa notizia, è che la Coldiretti non chiede dazi che non si potrebbero fare in Europa o in tasse sui prodotti che arrivano dall'estero eccetera eccetera, misure difensive, ma chiede una misura aggressiva, dicono facciamo l'etichettatura trasparente dei prodotti, il consumatore responsabile va e compra mozzarella di latte finlandese con scritto sopra in modo che tu lo sai, o di latte italiano dell'Agropontino o delle mucche lombarde per esempio, la Frisona. Che è il nome di una mucca, certo. Cioè anche il nome della mucca. No, tra l'altro devo dire che avendo visto anch'io al TG tutti questi servizi, bisognerebbe trovare il modo, il solito, è una cosa banale quello che sto dicendo, bisognerebbe trovare il modo per comprare il latte direttamente dal produttore, perché il vero problema, ci hanno detto, noi pigliamo 36 centesimi al litro, poi uno va di sotto casa al supermercato, il latte lo paga 1,50 euro, 1,80 euro, è pazzesco. Se si riuscisse ad andare direttamente dal produttore anche invece questo, che 36 centesimi, dargli 60 centesimi, saremmo tutti più felici, noi che lo paghiamo 60 centesimi, loro che prendono quasi il doppio di quello che prenderebbero dallo Stato. E poi ieri un'altra notizia si è aggiunta: il Consiglio di Stato ha detto no all'agricoltore friulano Giorgio Fidenato, che aveva fatto ricorso sugli OGM contro il decreto del governo che ha prorogato il divieto di produzione in Italia di organismi, cioè di agricoltura con semi geneticamente modificati. Quindi insomma l'Italia conferma anche sul fronte della giustizia amministrativa, che a volte lascia diciamo sorprese, porta sorprese, il suo no agli OGM. Noi insomma mettiamo insieme queste due notizie per dire puntiamo sulla qualità, il made in Italy, alimentare l'eccellenza. Allora cari ascoltatori, cosa vogliamo, cosa possiamo fare noi? Non possiamo fare molto, possiamo decantare le lodi della cipolla di Tropea, chiamateci se siete di Tropea, se siete di Tropea. Oppure che conoscete una poesia sull'aceto balsamico, non lo so, il formaggio di fossa, tutte queste cose. Ma poesie sul formaggio di fossa, ma anche ricette, io direi, anche se avete un prodotto tipico che sapete che c'è solamente nella vostra regione il o nella vostra di colonnata. Ancora, esatto, nel vostro paese addirittura. Direi che aggiungo una terza notizia, sì, sempre in linea, sì, con queste cose qui, che è il Festival del Cinema di Berlino, che si è aperto l'altro ieri e che finisce il 15 di febbraio, dove vede diversi film italiani in concorso. E tra l'altro c'è proprio una sezione che si chiama che diciamo è il cinema sul cibo, e al festival c'è un film italiano di montaggio, ne ho viste alcune immagini, mi sembra bellissimo, ed è un film che si chiama Quando l'Italia mangiava in bianco e nero, è di Andrea Groplero di Troppenburg. Ed è un film di montaggio, diciamo, con tutte le immagini, sì, dell'Istituto Luce, storiche, vecchie, messe, montate, raccontando la storia d'Italia attraverso la storia del cibo, della cucina, delle preparazioni culinarie. Va bene, cari ascoltatori, 800 24 00 24, allora insomma chiamateci, vogliamo le vostre ricette, i vostri momenti poetici, le lodi dei vostri prodotti locali del Made in Italy. Ah, le lodi, detto così è ancora più chiaro, di andare bello su poesia, sì, cioè le lodi dei vostri prodotti locali. Quindi se c'è una bella lode giustamente sul porcellino. 800 24 00 24. Adesso però è il momento di conoscere i lavoratori, i ragazzi della cooperativa che ha rilevato la Ideal Standard. Vai! I bianchi, i neri, la religione, il pessimismo della ragione, la foto di gruppo, il primo giorno di scuola, libertà di movimento, libertà di parola, le otto principesse, i 700 nani, le armi, gli scudi, i diritti umani, i corvi che gracchiano, rivoluzione, però non c'è pietà e non c'è compassione, il sangue si coagula sul pavimento, si inceppa l'articolazione del movimento, la voce che balbetta, la speranza che inciampa, la capra che crepa, la capra che campa, la giornalista scrittrice che ama la guerra perché le ricorda quando era giovane e bella, amici e nemici, che comodità, villaggi di fango contro grandi città. Salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvali, salvami, salvati, salviamoci, salvami, salvati, salviamoci, le reti, i cancelli, le zone rosse, migliaia. Una storia che dicevamo che ha colpito gli italiani in questi giorni, ha coinvolto, forse anche commosso qualcuno, ha interessato quantomeno per il nome dell'azienda coinvolta, la Ideal Standard, ma anche per il lieto fine, una volta tanto, una storia reale, vera, consistente, una cooperativa di lavoratori che ha salvato la produzione in Italia della Ideal Standard. La firma finale c'è stata al Ministero dello Sviluppo Economico qualche giorno fa, e noi abbiamo qua con noi il presidente della cooperativa Ideal Scala, Gianmario Petozzi. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto complimenti, perché insomma la trattativa è stata abbastanza lunga e in settimana c'è stata la firma, cioè si è concluso un percorso che non era scontato che arrivasse a buon fine. Assolutamente no, è stata un'avvertenza veramente lunga, estenuante, in alcuni frangenti anche molto spigolosa ed aspra. I lavoratori, che voglio ringraziare, sono stati veramente esemplari, hanno presidiato lo stabilimento fino all'ultimo giorno per evitare che Ideal Standard portasse via gli impianti, e quindi sono stati una delle leve vincenti per arrivare a questo accordo. Quanti siete coinvolti, lavoratori, in questa io ho detto una cooperativa, la forma è questa, è sì, così? Sì, esattamente, i lavoratori che sono usciti, che hanno perso il lavoro, sono 400, e noi a luglio, visto che le manifestazioni di interesse precedenti a rilevare l'attività sono sfumate nel nulla, pur di continuare ad avere gli ammortizzatori sociali, ci siamo costituiti in cooperativa e abbiamo presentato una manifestazione di interesse di Ideal Standard, e quindi abbiamo intavolato questo negoziato. Alla partenza il piano prevede che saranno rimpiegati subito 50 lavoratori per arrivare a 150 nel triennio. Rimane comunque il nostro sogno, il nostro obiettivo, allargare al di là di quello che è la ceramica sanitaria ad altre attività sempre in forma cooperativistica, per cercare di rimpiegare tutti e quindi di salvare tutti i posti di lavoro. Lei ha lavorato tra l'altro 27 anni in questa azienda, è vero? Sì. Ma praticamente da quando ne avevo 20, finito il militare, ho iniziato in questa azienda. Quindi insomma ha dato all'interno della Ideal Standard. Ma direi Direi proprio di sì. E com'è stato che diciamo lei è stato poi scelto come presidente di questa cooperativa? Come è avvenuta questa scelta? Ma guardi, io ho sempre fatto parte dell'RSU, della CISL all'interno di quell'azienda e pertanto sì, avendo un ruolo di rappresentanza abbiamo deciso di fare questa cosa e poi abbiamo appunto costituito il consiglio di amministrazione con insieme i miei colleghi e abbiamo fatto questa scelta. Sì, vai Carlo. Buongiorno presidente, intanto complimenti veramente. Mi sembra grazie. Come, sono lo stupido dei due io, ma come dicevo prima inizio trasmissione sono felicissimo intanto perché Ideal Standard è la prima parola che vedo tutte le mattine quando vado in bagno e io ci vado a occhi chiusi praticamente e quindi sono felicissimo sapere adesso anche in che mani è la Ideal Standard e spero di poter continuare tutte le mattine in qualunque caso mi troverò a trovare un gabinetto, posso dire un gabinetto? Si può dire? Sì, un gabinetto sì. O un lavandino o un sanitario con scritto Ideal Standard in corsivo, in blu, questo a casa mia. E quindi volevo fare i complimenti, ma le volevo chiedere, come prima eravate in 400, adesso in questa cooperativa voi sperate di essere in 50, mi sembra di aver letto di essere in 150 entro un paio d'anni, giusto? Sì, esatto. E com'è che avete scelto? Nel senso che questi 50 sono coloro che si sono messi insieme in cooperativa oppure avete purtroppo dovuto fare delle scelte, cioè dire ragazzi più di 50 non ce la facciamo? Guardi, adesso superato questo scoglio, il prossimo obiettivo è quello di costituire una solida base finanziaria attraverso il mondo della cooperazione, attraverso tutti quelli che sono stati vicini ai lavoratori sul territorio di Pordenone, quindi che ringrazio, quindi associazioni sindacali, Unindustria, tutte le istituzioni. E pertanto, ripeto, il prossimo obiettivo è quello di costituire una solida base finanziaria, perché dobbiamo mettere le basi certe per poter aumentare il numero di 50, che quei 50 saranno sicuramente scelti in funzione dei profili professionali che servono per il decollo dell'attività. Certo, cioè io quello che mi chiedevo era gli altri 350 come vi guarderanno? Gli altri 350, come dicevo prima, dovranno avere la pazienza di che questo piano decolli, che ci sia appunto la certezza di poter proseguire, pertanto questa è una sfida che noi non dobbiamo perdere, una sfida ai mercati. E come sì. Lei diceva, che è la prima cosa che vede al mattino, il nome Ideal sì. Standard, ci auguriamo anche di essere la prima realtà che riesce, come dire, in un contesto così grande come la multinazionale, a diventare un esempio per tutti coloro che si trovano nella nostra situazione. Giusto, giusto. Senta, c'è un ascoltatore che twitta sempre con noi, Kim Jong-un, che dice: prima di lodare questa cooperativa di lavoratori che salvano le aziende, aspettiamo un paio di anni per vedere se sopravvivono. Io dico invece di no, lodiamoli subito, perché non è scontato che si sia creata questa situazione, cioè poteva anche finire tutto e stop, cioè il fatto che dei lavoratori decidano di assumersi un rischio imprenditoriale, fondino una cooperativa, trattino con l'azienda, se arrivi in fondo a questo percorso con un accordo firmato è comunque già un risultato, poi naturalmente bisognerà verificarlo e monitorarlo questo risultato sul lungo periodo. Però le voglio chiedere questo, Petozzi, quanto avete investito diciamo come singoli per fondare questa cooperativa proprio anche economicamente, cioè avete dovuto mettere una quota? Sì, attualmente è l'unica quota certa che c'è, pertanto sarà l'anticipo della mobilità che l'INPS rilascia a chi intende fare imprenditoria e quindi tutti quelli che entreranno chiederanno l'anticipo totale della mobilità in cui attualmente siamo, pertanto sarà una cifra che viaggia tra i 15 e i 20 mila euro a testa. Quindi insomma capite ascoltatori che già questo non è un passaggio da poco, si tratta di investire 15-20 mila euro dei propri risparmi. E quindi esatto. C'è una parte anche di rischio imprenditoriale, insomma da non sottovalutare. Noi vi facciamo l'in bocca al lupo, speriamo che questa iniziativa naturalmente vada avanti, cammini sulle sue gambe e che possa essere anche un modello. Ci crede al fatto che si possa, come dire, anche replicare, perché questa è una grande azienda, altrove abbiamo sentito di cooperative e storie più piccole, però questo forse è uno dei casi più grandi in Italia. Sì, sicuramente. sicuramente uno dei casi più grandi. Noi ci abbiamo sempre creduto fin dall'inizio per dare appunto speranza ai lavoratori. È chiaro che ci vuole coraggio, bisogna rischiare e bisogna costruire delle solide basi attraverso dei piani e ricerche di mercato e appunto una solida base finanziaria, e quindi bisogna cercare di fare gioco di squadra sui territori dove sono coinvolti questi lavoratori. Grazie ancora, Gianmario Petozzi, presidente della cooperativa Ideal Scala, e torneremo naturalmente presto a raccontare questa storia e vedere come sta andando. Speriamo molto molto bene. 800 24 0024. Ti è piaciuta? Molto, Carlo? Moltissimo, moltissimo, mi piacciono queste storie, molto. Cosa che avevamo fatto l'altra volta? Avevamo parlato di un'altra cooperativa. Di un'altra cooperativa, sì. No, infatti fatto il birrificio Messina. Sempre, nel senso che mi sembra è molto bello quando tutti, diciamo, quelli che decidono di mettersi in cooperativa si mettono insieme, fanno la cooperativa. E diventa più difficile quando tu sai che c'è una parte invece hai bisogno, sì, che non puoi essere, diciamo, in più di 50, sono in 400, quindi immagino che lì possano nascere dei conflitti. Comunque mi redarguiscono, direi, con un SMS dicendo che si dice vacca e non mucca. Mucca è all'asilo. Prima parlavamo di quote latte. Ho detto anch'io mucca, forse, sì. O forse entrambi. E niente, solamente che la mattina presto, così dire vacca subito un botto, mi sento sempre. Invece è giusto, è corretto, vacca. Arrivano gli auguri su Twitter di Steve. Tanta passione, tanta forza, ce la faranno. Complimenti alla Ideal Standard e a Gianmario Petozzi. 800 24 0024. Ci fermiamo un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. 800 24 0024. Di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Cari ascoltatori, Francesco ci chiama da Bari. Buongiorno. Intanto mi faccia leggere solo il tweet di Kim Jong-un, che ha risposto a quello che io ho detto in onda del suo tweet, che ho detto: bisogna lodare comunque queste cooperative di lavoratori che ci provano, naturalmente in attesa di vedere i risultati. Però già il fatto che parta questa cooperativa, che si cerchino di salvare alcuni posti di lavoro anche assumendosi un rischio imprenditoriale, è comunque, io credo, una buona notizia. Meglio di nulla, assolutamente sì. Però Kim Jong-un ci scrive: sono scettico per queste cooperative perché un mio amico, mio parente ci ha provato e dopo 24 mesi ha perso TFR, mobilità e preso pochi stipendi. Cavolo, può succedere. Infatti non è mica facile. Che ci chiamasse il cugino, sentiamolo, perché magari è colpa del cugino. Cugino di Kim Jong-un, no? Fatti avanti all'800 24 0024. Invece ti leggo un SMS che dice: la domanda è molto semplice, ma meglio il latte finlandese o quello campano? Quale preferite? Io non ho la più pallida idea, quindi possiamo andare con il nostro ascoltatore. Ma io so che il latte campano, perché la questione della terra dei fuochi, vengono fatti dei controlli naturalmente, quindi non dovrebbero esserci problemi. Ma è giusto quello che chiede la Coldiretti, è giusto che ci sia scritto da dove viene quel latte lì. Questo chiede la Coldiretti, non di chiudere le frontiere al latte finlandese, ma di scrivere: questa mozzarella è fatta con latte finlandese, la volete? Sì, compratela. Con questo vago accento che mi sembrava poco finlandese. Va bene. Francesco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Il mio intervento, sì, riguardava un prodotto eccezionale che sicuramente gli ascoltatori, ora quando nominerò la ferrovia come cultivar di ciliegie, sicuramente conosceranno sia il valore e sia la bontà. E se non lo conoscessimo, ci pensa lei ad aggiornarci, Francesco. A spiegarcelo. Esatto. Infatti io sono attualmente, vi ascolto da una radiolina, che sono qui in un campo di ciliegie proprio a fare le ultime potature di queste piante. Ma che meraviglia. È l'immagine più bella di sempre, cioè una piccola radiolina in un campo di ciliegie. Sì, è una radiolina a forma di ciliegia, vogliamo sperare. No, lei è anche un piccolo gnomo che ci sta chiamando. E vi dico anche che quando la radiolina non ha la sua funzione ottimale, perché non riesce a prendere le onde, io mi arrabbio in un modo particolare, perché come? Ascolto sempre la vostra trasmissione, sia, sì, quella vostra che tutti i giorni. Ma come si arrabbia? Ce lo dica a questo punto, Francesco. Cosa fa? Vi dico onestamente quello che faccio. Ci dica. Speriamo non sia niente di grave. Cerco di cambiare posizione, perché la radiolina ce l'ho nella mia giacca, sì, e cerco di girarmi. Vabbè, fin qua è normale, Francesco. Da poter avere le onde a favore del mio apparecchio. Sì. Il mio intervento era questo. Dobbiamo capire il modo in cui lei si arrabbia, nel senso che lei inizia a girare come una trottola cercando di prendere le onde, perché però le do un consiglio: la radiolina la può anche tirare fuori dalla tasca magari e mettere in un posto in cui c'è campo, se ha la possibilità di stare vicino. Se deve fare chilometri, ovviamente invece è meglio se la tenga nella tasca. Lui preferisce fare così. Però io non ho ancora capito qual è il prodotto d'eccellenza di cui ci vuole parlare, allora, Francesco. Il prodotto di eccellenza è una cultivar nata nella nostra zona, parliamo di Turi, Conversano, San Michele. Sì, ma cos'è una cultivar? Ecco, la cultivar è il nome di un prodotto. La cultivar si chiama Ferrovia, è riconosciuta in tutto il mondo perché quando vado Scusi, io non ho capito ancora che sapore ha, di cosa stiamo parlando? Allora, stiamo parlando di una ciliegia. Oh, ciliegia. Ottima, ottima, dura. Che si può conservare in frigo, sì, può raggiungere diciamo grosse distanze perché non ha problemi di conservazione se viene ben conservata, ed ha un sapore, diciamo che tra tutte le ciliegie 4-5 volte abbiamo preso il premio qui a Turi per la ciliegia migliore come calibro e come sapore. Fantastico. Ma io voglio assaggiarla però, adesso, però questa io non ciliegia. Ho ancora capito come si chiama il nome di questa ciliegia. È Ferrovia, un DOP. Ferrovia. La ciliegia Ferrovia di Turi, ed è un Ferrovia, cos'è? Sì. È un DOP, no, un IGP, qualche cosa, no, o non è niente? Ecco, tutto questo perché vi volevo anche far notare come i problemi che si hanno sono proprio questi. Noi abbiamo fatto un sacco di interpellanze per avere la DOP della ciliegia Ferrovia, però le norme europee ci tarpano le ali. Va bene. Noi abbiamo dei problemi per quanto riguarda dover dire la differenza tra le altre ciliegie. La differenza è una sola, quella che è Acceleno, più buona la vostra. Sì, Acceleno. Acceleno c'è il centro delle ciliegie, dove Turi ne fa parte, e quando si fanno gli assaggi noi non abbiamo problemi. Io l'ascolterei per ore, Francesco, ma non abbiamo capito quasi niente di questa storia della ciliegia. Cioè sì, qualcosa sì. lei divaga, Francesco, va benissimo. Acceleno cos'è? Cioè una fiera della ciliegia? Certo, Acceleno confluiscono tutte le ciliegie ogni anno. Tutti i produttori di ciliegie. Ma cosa ci si fa per esempio con queste ciliegie? Le marmellate, cosa ci si fa? Vengono vendute così come sono? Le marmellate sono per il consumo fresco, perché sono buone da mangiare così. Sono una specialità. E dove le esportate, Francesco? Allora, noi abbiamo qui in zona dei grossi commercianti che le esportano sia in Italia e sia all'estero. Guardi, non dica sciocchezze, perché abbiamo qua in regia, in redazione, Claudio Schiattone, che è pugliese, lo sa. Quindi se lei dice qualcosa di sbagliato, per ora conferma e dice sono anche all'Esselunga, le ciliegie Ferrovie di Turi. Ecco. Meno male che ho trovato una conferma. Una compaesana. Va bene, Francesco, grazie mille. E grazie mille per questa telefonata meravigliosa dai campi. Mi è venuta una voglia di ciliegie inenarrabile. Insomma, si candida per vincere i biglietti anche oggi nella mostra del FAI a Varese, Wim Wenders America. Ricordiamo di chiamarci, con racconti sul cibo, su prodotti tipici della vostra zona, della vostra città, ma anche della vostra nonna, per esempio, ricette tipiche. 800 24 0024 traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. La casta non è una donna che porta una grande gonna per nascondere le sue virtù. La casta non sei tu. È una voce che canta in coro, una massa in un corpo solo. Non è proprio bella da vedere, perché la casta è il potere. Il potere che ammazza la cultura, che affossa l'intelligenza, un potere che non ha sostanza, è come un fungo, vive su di te, è la casta. Questa simpatica canzoncina sulla casta, perché insomma noi di Si può fare, devo dire che non ci siamo mai particolarmente indignati per una questione come per esempio gli stipendi di sindaci, assessori, parlamentari, che io credo debbano, un sindaco di una città come Firenze, come Bologna, come Milano deve avere un buono stipendio, non può guadagnare 1.000 euro al mese perché amministra una città importante. Anche ma perché vogliamo che ci vadano i migliori. I migliori, i migliori. C'è però sicuramente un tema che mette d'accordo tutti su questa benedetta casta, è quello dei vitalizi. Questa sì è una follia assoluta italiana, che per fortuna però insomma, almeno a livello locale sta finendo. Ci sono varie leggi regionali, vogliamo fare il punto questa volta in Toscana, dove è stata approvata una legge, come è successo anche per esempio da poco in Lombardia, che alza l'età in cui si può incassare l'assegno, anche se questo assegno andrebbe secondo me del tutto abolito, e in parte lo diminuisce pure, ma c'è chi ha addirittura rinunciato, e ne parliamo proprio con uno di questi consiglieri regionali toscani, nella fattispecie Mauro Romanelli, consigliere regionale di SEL in Toscana. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno, grazie. Buongiorno. Allora, è vero che lei ha in qualche modo anticipato, intanto però ci dica quale legge ha approvato il consiglio regionale toscano, così facciamo il punto su come si sta muovendo questa regione sui vitalizi. Noi diciamo fin dall'inizio abbiamo iniziato un dibattito, fin dall'inizio della legislatura, quindi nel 2010, perché stiamo diciamo scadendo ora, abbiamo iniziato un dibattito su questa questione che i nostri concittadini, ci chiedevano appunto di abolire. E in prima istanza siamo riusciti ad abolire i vitalizi per il futuro, per quelli che verranno dopo di noi. Questo perché l'ufficio legislativo ci aveva detto che i diritti acquisiti, cioè chi aveva già il vitalizio e anche chi aveva già iniziato a versare, quindi anche chi alla prima elezione aveva già iniziato i versamenti, non potevano essere privati di questo privilegio, perché comunque rientrava giuridicamente nella fattispecie dei diritti acquisiti. Quindi diciamo, in un primo tempo abbiamo abolito i vitalizi per chi veniva dopo di noi, dopodiché giustamente i cittadini in qualche maniera ci hanno detto vabbè, vi siete fatti un pochino belli sulla pelle degli altri, di chi verrà sì, che verranno dopo. Non è elegantissimo, è quello diciamo che viene non detto sempre, sì. Non era elegantissimo. Allora, diciamo in un secondo momento siamo intervenuti sulle modalità di questo vitalizio, quindi abbiamo innalzato a 65 anni l'età di fruibilità, abbiamo passato, quindi chiesto un contributo di solidarietà e poi alla fine abbiamo detto beh, però se non si può togliere, però possiamo rendere volontaria la rinuncia al vitalizio, e nell'ultima legge finanziaria regionale approvata a dicembre scorso abbiamo normato la possibilità di rinunciare al vitalizio richiedendo indietro i versamenti che uno aveva fatto, e io mi sono avvalso di questa possibilità. Ecco, perché la vera cosa è che quindi si può rinunciare al vitalizio, perché di solito ci dicevano sempre che non si poteva. Nel momento che si può, perlomeno sappiamo che se qualcuno lo prende è una scelta. Sì, se qualcuno lo prende è una scelta, ora a questo punto certo. Questo perché... però per la Toscana, vale solo per la Toscana, cioè voi che avete approvato questa legge o nelle altre regioni dove si è approvata una legge analoga? Io non ho notizia di altre regioni dove si è approvata una legge analoga, però la possono fare, sì, noi l'abbiamo... Comunque, complimenti. Fare. Lei perché ha deciso di rinunciare? Perché già si dice, di fronte a un diritto, come dire, consentito dalla legge, che so, come era prima andare in pensione a 45 anni, è successo in Italia a un sacco di persone, perché non farlo, no? Lei invece perché a un certo punto ha sentito il bisogno di dire no, ma io questo vitalizio ritiro i miei contributi, ci faccio qualcos'altro, ma non lo voglio questo vitalizio? Perché? Diciamo, era un tema su cui mi ero impegnato fin da subito, cioè se ci fosse stata la possibilità di rinunciare, io avevo detto fin da subito che avrei rinunciato, mi sembra giusto, tutto sommato è un privilegio, perché rispetto a quanto versiamo, se ipotizziamo una vita media di 80 anni, che è quella diciamo che statisticamente oggi uno si aspetta, riceviamo 4 volte quello che versiamo in media. Quindi infatti, e soprattutto un sacco di persone rischia che sperino che vi succeda qualcosa, diciamo, di solito. Il rischio poi è quello che la gente spera, che si arrivi a meno di 80 anni, siccome esatto. Io vorrei arrivare anche alla vita media, magari anche qualcuno di più. Certo. Arriviamoci un pochino meno ricchi e privilegiati, però arriviamoci. Va bene, grazie per il momento mille. A Mauro Romanelli, consigliere regionale di Serra in Toscana. Speriamo che faccia proseliti vitalizi, questo era il punto, almeno in Toscana era anche la scelta personale di questo consigliere regionale che ha personalmente rinunciato, ma adesso c'è una legge che diciamo quantomeno limita, argina un po' questo fenomeno totalmente antistorico e assurderrimo. Solo in Toscana, in realtà, perché la cosa interessante è che anche forse, altre regioni, forse non la legge così, andrebbe diciamo approvata ovunque, poi dopo ognuno scelga, però almeno uno sa che quella è una scelta, sennò viene sempre detto io vorrei rinunciare al mio vitalizio ma non posso, e lì non c'è niente da dire. Se fammi puoi annunciare una cosa, perché dopo il giornale radio sarà con noi in studio Simone Saccucci, educatore professionale di giorno, canta storie delle periferie. Finalmente. Di notte, il nostro cantore delle periferie, lo sentiremo subito dopo, sì, sarà con noi tutta l'ora. Finalmente dal vivo, qua in studio con noi. A dopo, ciao. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ho perso il mio paese è andato a fuoco e tutti i miei ricordi ora puzzano di fumo. La mia città è crollata, c'è stato il terremoto e in mezzo a tutti i resti oggi piange il mio futuro. Ho perso un braccio, ma come posso fare? Me ne è rimasto un altro, posso ancora afferrare. Ho perso una gamba, ma voglio ancora andare. Magari andrò più piano, mi toccherà di zoppicare. Ho perso la faccia, son diventato matto. Magari un matto santo se la perderò del tutto. M'hanno strappato il cuore, ma non è questione grave. Tengo a mente le nostre storie per poterci ancora amare. Ho perso me stesso e allora sono morto. E se sono morto, io non ti rispondo. Ti verrò in sogno e ti dirò: portami un fiore. E questa è la storia di testa dura fino alla fine. E questi era ed è Simone Saccucci. Buongiorno Simone, buongiorno, benvenuto con tutti. Noi Simone Saccucci, il Golden Boy da Guidonia, così scherzosamente lo voglio chiamare. Gli ascoltatori di Si può fare forse lo conoscono, ma già certo che lo conoscono, certo già lo conoscono già, perché con lui abbiamo fatto tante cose in passato. Simone Saccucci, educatore professionale di giorno, canta storie di notte, porta avanti un progetto di teatro canzone, di spettacoli, diciamo con in situazioni anche un po' particolari. Simone, per esempio, hai fatto uno spettacolo in una cava di marmo, sì, che è diciamo forse il clou anche del tuo. Sì, in un cementificio. Un cementificio. In un bel parcheggio di un supermercato. Insomma, i posti non mancano. Il clou, ma direi che è un anticlimax. Se vai sì, avanti, sì, cioè, dopo il parcheggio, dove si arriva? Ah, dentro anche un negozio. Aperto la domenica. Allora. Io posso dire che sono felicissimo che ci sia qua Simone Saccucci, dopo averlo sentito tante volte in giro per l'Italia in dei posti incredibili dove faceva degli spettacoli, sono felicissimo che sia qui fra noi. Tra l'altro prima gli ho detto: ma sei sicuro di voler fare tutta la canzone? Perché sai, magari ci sono quelli che non vogliono farla tutta perché dopo qualcuno se la scarica dal podcast, sì. E per descrivere chi è Simone Saccucci mi ha detto: guarda, io non sono nemmeno iscritto alla SIAE. Speravo che tu abbia rivelato un particolare grave. No. Allora, un progetto di canzone popolare, chiamatela come volete, che nasce da Guidonia, si interessa alla vita delle periferie di Guidonia, al fatto di questa cava di marmo che ha condizionato la vita delle persone, quindi il tema del rapporto tra il lavoro ma anche l'ambiente, un modo di raccontare storie, di cantare, che poi insomma si espande, si estende e va a conquistare non solo l'Italia, perché hai fatto spettacoli a Scampia anche altrove, ma anche in Inghilterra, sì, perché ti hanno chiamato. Sì, sì, sì, come no? Sì, sì, sono stato a Londra e a Sheffield. Ma e quest'anno, se magari riesco, ritorno. Come nasce, Simone, questa tua voglia di raccontare in questo modo questo tema delle periferie, ma il tema poi della tua storia, quella di Guidonia? Sì, guarda, la cosa è semplice, è nata così. Un concetto che mi ha sempre dato fastidio è questo, che il dire che la periferia, la cittadina, il quartiere, chiamatela come volete, è senza storia, perché mi sono sempre sentito... ho sempre pensato che fosse quasi un'offesa per chi ci vive nella periferia. È come dire che chi ci vive nella periferia non ha una vita. E è ancora quello che succede a me e a tanti, insomma. È una vecchia questione, diciamo, che la storia la fanno i vincitori. Esatto, sì. È come se gli altri non ce l'avessero. Esatto, io avevo voglia di presente e quindi sono partito dal passato. E quando mi sono accorto che esisteva un passato, cavolo, impossibile, non l'avrei mai detto, mi sono reso conto che esisteva un presente, dei posti che erano... sì, non erano a volte il massimo, però c'erano. E quindi da lì ho cominciato ad ascoltare. Alla fine mi sa che ero pieno e ho cominciato a raccontare, a traboccare e a chiedere di riraccontare. Quindi è diventato un circolo che qualche volta durante gli spettacoli si fa fatica a frenare, però... Il primo spettacolo aveva un nome particolare. Sì, Rocce, Spine, Streghe, era la prima cosa che è uscita. Sono le tre parole che senti, ma non solo a Guidonia, in tutte le periferie che ho girato, è sempre le parole sono diverse, ma i significati sono sempre quelli. Rocce, perché chi era arrivato aveva trovato solo roccia, almeno dalle mie parti. Quindi non un ambiente particolarmente ospitale, tra l'altro. Ha dovuto spaccare tutto per farsi casa, ma anche chi è partito poi dal centro perché le case costavano tanto. Troppo. E è arrivato da noi, ha trovato in fondo roccia lo stesso. E spine, perché c'erano tantissime spine, e streghe, perché nel caso mio è l'acqua solfurea con cui poi usano, che usano per lavorare il travertino, oltre a dare un odore molto, molto quella interessante. Quella classica puzza di uovo marcio. Sì, anche fogna volendo. crea dei buchi quasi all'interno, sì, del terreno, e quei vuoti d'aria col gas producono dei rumori, sì. E anticamente dalle mie parti si pensava fossero le streghe, sì, delle streghe. Poi ci giobbano anche gli anziani, però va bene. Sì. No, in che senso? Gli anziani? Sì, perché loro me lo raccontarono, no? Ma credo che fosse anche una cosa un po' teatrale, insomma, certo. c'è sempre. Ma è bello che sia così una leggenda, anche perché bellissimo. Sarebbe peggio dire ma mi sembra di aver sentito una scoreggina, diciamo, esatto, invece dici esatto, guarda, devono essere sicuramente le streghe. Esatto. Allora, va bene, noi però abbiamo anche delle cose nostre da continuare a fare, per esempio gli ascoltatori, vediamo un po' se c'è qualcuno che ci racconta, ci tesse le lodi di qualche prodotto locale, perché oggi questo abbiamo chiesto che gli ascoltatori... Anche poi... Simone Siaccucci è un prodotto locale, sì, quindi se qualcuno tipico vuole lodare Simone Siaccucci può chiamarci. Oppure tu stesso puoi lodarti da solo. Okay. Emanuele da Piacenza, buongiorno e benvenuto. Sì, buongiorno a voi, grazie. Buongiorno. Allora, io chiamavo perché sì, da produttore ortofrutticolo ho sentito parlare prima di cultivar Ferrovia, no? Mi riallaccio, sì, un po' a quello. Io vengo da un territorio dalla bassa Piacentina, quindi lungo il fiume Po, e qui di prodotti ne abbiamo tanti, tra cui anche la ciliegia. Ecco, la mia idea, il mio intervento era per questo motivo. Anche qui si fa Ferrovia, noi abbiamo poi la Smirne, abbiamo tante. È scattata la competizione sulla ciliegia. Ciliegia, no, deve essere così, per forza. Non solo, bene. Pesca, albicocca, altre tipicità, ma che cos'è l'obiettivo per la nostra terra? È cercare di differenziarsi. Quindi abbiamo fatto un passo oltre. Noi come azienda, sì, agricola abbiamo cercato invece di trasformarla questa frutta. E abbiamo cominciato a fare questi succhi di frutta, queste confetture, e venderli in un territorio dove abbiamo bisogno di parlare di noi. Voi immaginate il Po, Zanzare, il caldo, l'estate, ma chi è che viene a visitarci? Invece abbiamo ripristinato un po' il valore autentico delle zone, quindi la navigazione sul Po, quindi ospitiamo turisti e cerchiamo e gli di... E fate bere il succo di frutta. Tac. E non solo, cerchiamo loro di raccontare che qui si fa pasta fresca, che abbiamo il piccolo caseificio, e quindi abbiamo fatto questa strada del Po della Bassa Piacentina, dove desideriamo, grazie anche la vicinanza di Verdi, in quanto qua musicava, c'è la Villa Verdi, insomma cerchiamo di raccontare un qualcosa che del territorio deve differenziarsi. E quindi per fare questo ci siamo avvicinati anche al discorso delle deco, no? Prima avete accennato al discorso delle DOP, oggi è difficile andare a descrivere un prodotto rendendolo autentico per provenienza, perché ormai bene o male sì, in tutte le zone d'Italia noi cerchiamo di differenziarci. Allora una la deco strada del cos'è? Cos'è una deco? Ecco, ce lo dica lei. Una deco è una denominazione comunale, cioè la tipicità di un territorio non si ferma solamente al fatto che la cultivar lì è nata, ma la cultivar può benissimo avvenire e essere descritta in altre zone. Che cosa si deve fare? Si cerca di trovare tutte le tipicità di un territorio, dalla parte ambientale, la buona prassi igienico-sanitaria per cui un territorio si distingue, all'ospitalità. È un po' come le bandiere blu del mare, insomma, non è solo la qualità del prodotto, ma è tutta la qualità del territorio. Emanuele, è un fiume in piena, Emanuele, sì, a Piacenza. Ma no, una cosa che non ho capito, perché in realtà questa ciliegia è originaria della Puglia ed è stata importata da voi? È originaria della Puglia, poi come tanti prodotti, sì, non parliamo dell'arancia di Ribera, cose che per vocazione non possiamo parlare di tutte. Oggi è il giorno della ciliegia. Io però direi, quindi, Emanuele, che lei si candida, diciamo, al nostro gioco di oggi con questo concetto della strada del Po, cioè la vostra tipicità è il Po e quindi tutto quello che risale, ricostruisce, che contribuisce a creare, insomma, vita e sapore intorno al Po. Grazie Emanuele. E soprattutto il nostro ascoltatore ideale, nel senso che chiama per parlare di ciliegie, perché abbiamo appena parlato, sì, di ciliegie, e dice della sua zona, le periferie, i racconti, è importante raccontare, e abbiamo qua Simone Saccucci, quindi direi vabbè, che adesso ci alziamo e ce l'andiamo, okay, quasi, non ci vediamo più a nulla, Carlo. È quasi un ospite, sembra quasi un ospite pagato, quindi lo abbiamo ringraziamo. Anche Luigi da Bari, però gli chiediamo la cortesia di rimanere in linea, perché dobbiamo prima fare le informazioni sul traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sul comodino c'è la foto nostra. Nonna prepara il caffè, nonno bestemmia carte. Io con la mano tocco il divano. Come da piccolo la pelle d'oca sul soffitto un'altra bella crepa. Questa è casa mia. Nemmeno accannonate me ne vado via. Questa è la vita mia. Nemmeno accannonate me ne vado via. Un mutuo ad 80 anni, ma dimmi tu. Ne ho fatti già 50 di sacrifici. Qua dentro i miei nipoti ci sono tutti cresciuti. Noi a Villalba ci siamo nati. Noi a Villalba ci siamo nati. Ed è arrivato il momento, adesso che siete deconcentrati, di cantare con me. Questa è casa mia. Ma no, questa è Radio 24. E chi se ne frega. questa è casa mia. Nemmeno a cannonate me ne vado via. Nemmeno a cannonate me ne vado via. Questa è casa mia. Questa è casa mia. Nemmeno a cannonate me ne vado via. Nemmeno a cannonate me ne vado via. Non me ne vado via. Ce la facciamo. 40 anni in cava. L'acqua spruzza sulla lama, dentro i polmoni, il travertino. Questa è casa mia. Nemmeno a cannonate me ne vado via. Vai, bravi. Questa è casa mia. Bravissimo. Nemmeno a cannonate me ne vado via. Simone Saccucci, grazie per averci fatto cantare. Spero che gli ascoltatori non ce ne vorranno a vita. Secondo me sì. Speriamo che ce ne vogliano solamente fino a giugno. Poi dopo ci sarà una moratoria, speriamo. Insomma, ecco, è la prima volta che canto in radio. E forse sarà anche l'ultima. Emozionato? Io emozionatissimo. Simone, allora, questa è casa mia, una canzone che c'ha questo tema forte della casa, delle radici, ma ce lo stavi già raccontando, sì. Questo è proprio il tema che ti muove, no? E che ha avuto questo momento forte nel quale tu hai voluto andare a fare uno spettacolo che parlasse dal luogo che più caratterizza casa vostra, cioè sì. Guidonia, che è questa cava, no? Sì. E tu ti sei intestardito, poi hai ottenuto i permessi, perché credo non fosse mai successo, non so, in Italia, una roba del genere. Sì, raccontacelo. È passato abbastanza, insomma, sì, ho dovuto parlare un po' con il padrone della cava, perché le cave hanno tutte delle proprietà, fanno parte di un consorzio, ma hanno tutti dei proprietari, insomma, e quindi è passato un po' di tempo e siamo riusciti ad andare là, e la cava, sì, è un po' insieme al cementificio da noi, è un po' un elemento centrale, perché ha attirato lavoro, ha fatto crescere il posto, e adesso il posto al posto sta creando diversi problemi, mentre continua a dare lavoro. È un tema, questo, scusa Simone, che sì. È di grande attualità, no? Anche per l'Italia. Pensate a cos'è tutta la questione dell'Ilva, sì. A cos'è stata tutta quella questione, cioè una grandissima azienda, in quel caso veramente grande, con tanti posti di lavoro, ma anche tantissimi problemi ambientali e di salute. E questo non c'è solo all'Ilva, ma si potrebbero raccontare storie. Tra l'altro, tra poco ne racconteremo un'altra che riguarda invece una storia a lieto fine, il recupero del fiume Bormida, che è stato inquinato per decenni da un'altra industria, l'ACNA. E quindi veramente questo è un tema, però ecco, declinato invece a livello di comunità locale, una storia magari piccola, di cui forse gli italiani o addirittura i tuoi corregionali magari non sono a conoscenza. Che cosa ti ha portato alla fine tutto questo percorso? E le reazioni anche delle persone che sono venute a vederti dentro la cava? Le reazioni sono state due essenzialmente. Una parte diceva che era per fare pubblicità al proprietario della cava. Ah, ecco. e i malfidei, i malpensanti. E quindi una parte era quella. L'altra parte più o meno sa più o meno come la penso. L'idea mia era far entrare. Io racconto semplicemente, poi lì con gli operai, con i cavatori, quando abbiamo preparato tutta la location, ho parlato tanto con loro, sono stati gentilissimi, mi hanno aiutato in tutto, ma come te ne metto le ruspe, come te ne metto i blocchi, ma non lo so, fate voi. Dice, speriamo che ci sarà questo piano, perché sennò poi perché lì cambia ogni giorno, no? E quindi sì, le reazioni sono state queste, entriamo, vediamo che deve fare, è stata una serata particolare, e questa canzone racconta proprio quello che sta succedendo e che succedeva ancora di più prima. Un cavatore va in pensione dalle nostre parti e molto spesso perde casa a causa del suo lavoro. E quindi questa è una storia verissima, nel senso che... Perché perde casa a causa del suo lavoro? L'idea in realtà è proprio quello che è accaduto. Il nipote di questo signore, di questo cavatore, si chiedeva, non riusciva a capire come mai il nonno avesse lavorato per far crollare casa sua. È difficile da spiegare, è complicato, io non lo so spiegare. Mentre la raccontava il nipote e il nonno, l'effetto era grande, e io l'unica cosa che ho potuto fare è metterla esattamente come è andata e senza dare commenti, come penso sia giusto fare. Bravissimo Simone, perché è inclusivo con chiunque senza dare giudizi. Sì, vedi. esatto. Tra l'altro stavo anche pensando che questa è casa mia, nemmeno a cannonate me ne vado via. È riuscito anche a farmi cantare, forse anche perché è il primo verso che sento senza una R, non c'è neanche una R in ma l'ho in fatto entrambi. Apposta, esatto, l'ho fatto apposta. Esatto, l'hai fatto apposta. Ma non male. Ho un ascoltatore di bar, io sì, sono Luigi. Molto agitato, perché secondo me vuole parlare di ciliegie. Eccolo qua. Luigi, tra l'altro credo che Luigi sia anche un nostro ascoltatore abbastanza assiduo, che twitta anche lui. È quel Luigi lì che penso io? Sì, buongiorno Alessio. Buongiorno. E lui buongiorno. Ci segue, sappiatelo, ascoltate, l'ho già detto altre volte, nel weekend va a lavorare nel suo campo di ulivi, se ricordo bene, o di vite. Sì. No, sì, ulivi. Io sono, sì, un, pic, piccolo, sono un piccolissimo produttore, ho delle viti antiche e degli ulivi secolari. Io amo dire che ho la cura, non che coltivo, ho la cura di ulivi secolari e di viti antiche. Ma ecco. Ciliegie niente? No, questa la... Oggi è il giorno della ciliegia, no, ci chiamano no, tutti no, per la ciliegia. Penso che di ciliegie adesso possiamo mettere un po' a lato le ciliegie. Adesso con il prodotto che coltiviamo qui, il prodotto che di cui vi parlerò io, dobbiamo condire tutta la trasmissione. Olio di oliva, specialmente nella mia zona, poi qui è una varietà molto particolare, una varietà che si chiama Coratina. Ecco, raccontiamo proprio i dettagli, i sapori, i profumi particolari. Coratina, ma è una varietà d'olio o d'oliva? È una varietà d'oliva, da cui si estrae un olio che è il migliore in assoluto. Questo olio qua ha dei sentori molto intensi, un fruttato intenso, ha dei retrogusti particolari. Che colore ha questo olio? Giallo o verde? Dipende dalla maturazione delle olive. Se l'oliva è più verde, chiaramente l'olio è più verde. Se l'oliva è più matura, tende al giallo. Quindi dipende molto dalla maturazione. Ha un colore intenso oppure più trasparente? È molto intenso. Anche perché noi amiamo commercializzarlo grezzo e non filtrato, come magari lo trovano in bottiglia nei supermercati. Dove lo vendete? In Italia, all'estero? Io sono un piccolo produttore. Un po' lo vendo per conto mio, altro lo vendiamo in una cooperativa. Quanto ne fa, Luigi? Quanto ne fa di olio a quintali? Dipende dalle annate, perché quest'anno, per esempio, è stata un'annata molto scarsa. Negativa, lo so, brutta. Negativa per i danni climatici. Ma lei, scusi, Luigi, fa questo nella vita o fa anche altro? No, io faccio questo nella vita. Va bene. Io adesso sono in campagna e sono sceso dalla pianta perché per stare più tranquillo. E per ascoltarci. Sono sceso dalla pianta è la frase migliore veramente del secolo, della trasmissione di sicuro. Quanto meno di sono oggi. Grazie. Sceso dalla pianta. Grazie Luigi. Con l'oliva di Coratina, specialità Coratina. Mi speravo, un due parole su una ciliegia ferrovia, non è che mi desse fastidio, però... Pensa che io l'ho scoperta oggi la ciliegia ferrovia, io non la conoscevo. Però mi è venuta una voglia di... Lo so, adesso aspetta che poi arriverà anche il tuo momento. Arriverà la colazione, la terza colazione. Marco da Reggio Emilia, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Se l'ascoltatore di prima era sulla pianta, io sono nella stalla, che sono un veterinario buiatra, che lavora quindi nel settore vacca da latte. Fantastico, adesso è nella stalla con chi? Con l'allevatore, sono qui che sto accudendo 150 vacche in lattazione. Dicevo anche con le signore, insomma, lì con le signore e vacche. Ma giustamente bisogna dire vacche, non mucche. Come c'hanno bisogno di dire vacca e non mucca? Sono vacche, queste sono vacche. Ma perché? Cosa c'è di sbagliato a dire mucca? Mi scusi, perché io... Non è un termine che va bene nel cartone animato. Ci hanno redarguito dicendoci che è un termine d'asilo. Assoluto, appunto, invece il nome esatto è vacca da latte. Esatto. Quante vacche ci sono lì esattamente dove è lei? Queste sono 150, più in asciutto sono circa 250 casi. E come si comportano? Tranquillamente? Benissimo, sì, loro mangiano, sono tranquilli. Si fanno mungere serenamente. Stanno parlando di quote latte stamattina? Tra di loro? Sì, perché io volevo dire che ancora i nostri produttori stanno pagando le multe delle quote latte perché avevano rateizzato. Questo e in più devono ancora comprare delle quote perché devono compensare l'anno 2014. Però ecco, lei che se ho capito bene lei fa il veterinario, lei fa il veterinario. Sì, esatto, sì, ecco, sì, è certo. Vero però questo che io dalla giornata di ieri, dalla protesta degli allevatori della Coldiretti che lamentano un prezzo troppo basso del latte e temono quando al 31 marzo finirà il regime delle quote, diciamo un'invasione ancora più massiccia di prodotti dal Nord Europa in particolare, loro dicono di bassa qualità e a basso costo. Quindi questo regime delle quote latte in fondo, tutto sommato, fino ad oggi in qualche modo ci ha anche giovato. Sì, sotto un certo mercato va tutelato, a parte che noi in Italia facciamo tutti i prodotti tipici, la maggior parte. Io per esempio sono nella zona del parmigiano reggiano, lavoro con latte, con vacche che producono latte per parmigiano reggiano. Quindi questa cosa dell'etichettatura è una cosa che voi produttori sostenete? È quello il fondamentale, cioè per quale motivo ancora oggi il consumatore non deve sapere da dove è stato prodotto, ma non soltanto il latte, i pomodori, qualunque prodotto agricolo. E voi che varietà fate di latte? Qualcosa di particolare? O di mucche? Che mucche avete? Che vacche avete? Scusi. Sono vacche Frisone. Le famose Frisone. E la vacca Frisona di dov'è originaria? Originaria è olandese, viene dall'Olanda, poi è stata selezionata in America e adesso sono tutti di ceppo americano in sostanza, comunque sono americano-canadese, comunque sono frisone. E sono il parmigiano? Però il nostro parmigiano lo facciamo con queste vacche, pur essendo loro di origine, però, diciamo. Quello che conta è come sono alimentate. Come sono alimentate? Soltanto con prodotti genuini di prima qualità e basta, nient'altro, perché per fare un prodotto a lunga stagionatura come questo non puoi fare nient'altro che lavorazione tradizionale. Sì, allora io devo dire anche che adesso, perché prevengo, mi scusi un attimo Marco, che ci sono degli ascoltatori che dicono sì, va bene, tutto vero, però bevete il latte di soia, lasciate in pace le povere mucche. Lo dico perché così per riportare una posizione, no, che c'è gli animalisti e quant'altro. Ma le vacche che stanno lì da voi, Marco, quanto spazio hanno l'una dall'altra? Come stanno? Cioè, come le trattate? Hanno delle aziende fantastiche, che hanno lo spazio, hanno la beverata. Ma stanno sempre chiuse là dentro o pascolano ogni tanto? No, pascolo non esiste qua. Hanno i recinti fuori, hanno le cuccette, hanno il massimo del comfort. Ma sono le vacche Frisone che secondo me se la tirano pure, sono quelle che fanno il parmigiano reggiano, che secondo me vanno da quelle che dicono tu fai solo stracchino, sei solo chiacchiere stracchino, le Frisone. Volevo fare solo un appunto sul fatto degli OGM, perché anche questo è l'assurdo italiano, cioè tutti i nostri animali, tutti i prodotti mangiano prodotti OGM, che è certificato sul cartellino, qui vengono alimentate con OGM ma non possiamo produrli, quindi abbiamo gli svantaggi e non i vantaggi. Questo è l'altro assurdità italiana. Questo è un altro tema sollevato da una parte degli agricoltori italiani che ha un fondamento di verità. Io però mi vorrei fermare sul punto della vacca Frisona. Grazie Marco per averci chiamato da una stalla a Reggio Emilia, e quindi allunghiamo l'elenco delle specialità, delle particolarità del nostro Made in Italy alimentare. Abbiamo la ciliegia ferrovia che viene da Turi, poi cosa abbiamo avuto ancora? L'oliva coratina e adesso aggiungiamo la vacca Frisona. Mi pare che per il momento stiamo qua, poi vediamo chi col suo racconto si aggiudica i biglietti della mostra Wim Wenders America a Villa Panza del Fai. Ci fermiamo, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Questa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella. Sola, senza il ricordo di un dolore, vivevi senza il sogno di un amore, ma un re senza corona e senza scorta bussò tre volte un giorno alla tua porta. Ecco, è arrivato il momento di parlare del fiume Bormida, che tra l'altro riguarda anche questa canzone di Fabrizio De André, qua interpretata da Gianna Nannini, perché il caso di cronaca da cui lui prese spunto riguardava probabilmente proprio il fiume Bormida. Ma non è naturalmente di questo che vogliamo parlare, ma del recupero di questo fiume che è una storia annosa, lunghissima, di inquinamento in Italia, ma adesso di rinascita. E noi ne parliamo con Ilvo Barbiero, che è ingegnere chimico tra i fondatori dell'Associazione per la Rinascita della Valle Bormida. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, salve, sì, infatti canticchiavo anche la canzone in diretta, perché in effetti sì, Fabrizio De André che è di Genova, quindi è non un molto fiume questo, che è una valle questa che ha mille spunti anche letterari. Allora, per esempio, i giornali hanno scritto in questi giorni, torna a vivere il fiume avvelenato di Fenoglio, perché lui scriveva nel 1963, pensate, hai mai visto il Bormida? Ha l'acqua color sangue raggrumato, perché porta via i rifiuti delle fabbriche di Cengio e sulle sue rive non cresce più un filo d'erba, un'acqua più porca e avvelenata che ti mette freddo. Allora, questa è una storia antichissima, tra l'altro. Sì, mi sono emozionato perché in realtà io questa storia, diciamo, l'ho studiata moltissimo, perché scrissi uno spettacolo, direi nel 95, che si chiamava Acqua Porca e pigliava esattamente il titolo da Fenoglio, insieme a Fabrizio Pagella e Antonio Pizzicato, che saluto, e forse ci siamo pure conosciuti, Ilvo. Sì, direi di sì. Esatto. La durata di questi movimenti e così via. Allora, io abbiamo incontrato tanta gente, sì. Interrompo questo idillio perché voglio riepilogare velocissimamente la storia, perché poi è importante arrivare all'oggi, al recupero e alla rinascita. Una storia che viene da lontanissimo, già alla fine dell'Ottocento, il Bormida, il territorio interessato da una fabbrica di dinamite, poi 6.000 dipendenti nel 1918. Negli anni successivi arrivano con l'Italgas, arriva la chimica, arriva l'azienda coloranti nazionali e affini, l'ACNA, con sede proprio a Cengio, in provincia di Savona. Il territorio e il fiume si riempono di sostanze inquinanti, scaricate a volte anche nel rispetto delle leggi di allora meno restrittive, a volte proprio in maniera illegale. Cominciano le proteste della valle, cominciano i contenziosi delle autorità locali con l'azienda, insomma si arriva, poi passa attraverso il fallimento dell'Enimont negli anni 80. Nel 1998 viene chiusa la fabbrica e si inizia a parlare di bonifica. Partiamo da qua e arriviamo a festeggiare che si può tornare a pescare da oggi nel Bormida, è così, ingegnere? Sì, infatti, diciamo che la bonifica, la parte più dura, è durata per circa 6 anni, è stata gestita dal commissario Stefano Leoni e successivamente dal prefetto Romano. Il recupero del fiume è stato veramente miracoloso. Il fatto ha dimostrato che la natura è benigna verso l'uomo, se l'uomo non la vuole uccidere, non la vuole distruggere, come è stato fatto. Perché questa cosa è importante dirla, cioè il tema dei rifiuti che sono stati anche stoccati, adesso ci dirà come è stata una sua idea, però poi il fiume è rinato da solo, grazie alla forza della natura proprio. Diciamo che tolto la fonte principale dell'inquinamento, sia come produzione chimica con i suoi scarichi, e sia come percolato che andava nel fiume proveniente dai rifiuti senza protezione, di lì in avanti sul fiume praticamente non è stato fatto nessun intervento, e quindi è proprio la natura che ha recuperato da solo una volta che è stata eliminata la fonte dell'inquinamento nelle sue forme maggiori, diciamo. Ecco, invece per quanto riguarda proprio il tema dei rifiuti che c'erano, no? Degli agenti inquinanti, chimici, che si doveva decidere, c'erano varie ipotesi, incenerirli, bruciarli o fare altro. Se ho capito bene, ha prevalso quella che è stata la sua proposta, che qual è stata? La mia proposta è stata che avevamo due tipi di generi di inquinamento all'interno del sito. Da una parte i lagunaggi, che ricevevano tutti gli scarichi acquosi dell'ACNA durante la produzione e che non avevano nessun tipo di possibilità di trattamento, ed erano circa 300.000 metri cubi in parte liquidi e in parte solto, e dall'altro erano tutti rifiuti accumulati nei decenni precedenti. Quindi il problema è stato affrontato per queste due fonti di inquinamento in due modi diversi. Per quello che riguarda i lagunaggi, quindi in parte liquidi, in parte solidi, la mia proposta era quella di ridurre a solido anche quella che era la parte liquida e quindi di destinarli a discarica. Infatti 300.000 metri cubi con treni speciali fatti solo di rifiuti dell'ACNA dentro sacconi, nei primi anni 2000 sono stati trasportati in una miniera di sale di scarica in Germania, e con questo si è risolto il problema dei lagunaggi. Ecco, ma perché in Germania? Perché in Italia non c'era questa tecnologia, cioè Ci spieghi un attimo questo aspetto. Ecco, in realtà, proprio basandosi addirittura sulle analisi dell'istituto Donegani, che faceva parte del gruppo dell'azienda, questi rifiuti addirittura potevano anche non essere... non erano classificati come pericolosi sulla base della legislazione vigente in Italia. L'unico problema era dal punto di vista più che altro legale, nel senso che venivano classificati come rifiuti e non come terreni inquinati. E poi una quantità di rifiuti di questo genere in Italia non avrebbe trovato una discarica disposta ad accettarle. Io posso dire che in realtà la mia proposta originaria era di tumularli nel sarcofago, che comunque ne parleremo dopo, è presente nel sito, in quanto erano più pericolosi i rifiuti sepolti nel sito nei decenni precedenti, più sì. ancora di questi. L'unica cosa, per ragioni sì. sociali, politiche e così via, è stato deciso per questo di trasportarli in Germania. Ma tra l'altro, mi scusi, se non ricordo male, la Germania ha anche avuto delle responsabilità, perché la fabbrica lì, c'era la IG Farben, se non ricordo male, infatti, produceva, diciamo, anche lo Zyklon, che è quella che produceva anche lo Zyklon B, che è il gas che veniva usato nei campi di concentramento. Infatti, così. L'ACNA ha attraversato la storia del Novecento in modo pesante, in quanto è stata la più grande fabbrica di esplosivi nella prima guerra mondiale. Sì. E negli primi anni 30 Mussolini in persona ha curato il gruppo ACNA per la produzione anche di armi chimiche, e alla fine degli anni 30 è finita proprio nelle mani della IG Farben, quindi era di proprietà, diciamo, dei maggiori finanziatori del partito nazista. Esatto. E molto probabilmente è stato prodotto anche le sostanze che produceva il Zyklon B, diciamo. Le voglio fare una domanda, però le chiederò poi di rispondere dopo il traffico, che abbiamo una piccola pausa, che è questa: cioè, il territorio, le persone, la gente, magari giovane di oggi, che non, magari non conoscono la storia dell'inquinamento della Valle Bormida, dell'Acna di Cengio, una storia che viene addirittura dall'Ottocento, come hanno reagito oggi, come vivono oggi il recupero di questo territorio, se è un motivo d'orgoglio, se è un motivo davvero di rinascita, anche una lezione imparata per il futuro. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, qua potremmo anche far scattare un intreccio con Simone Saccucci, che nel territorio di Guidonia ha raccontato la storia di una cava di cemento, che insomma è una cosa un po' di una cava di marmo e di un cementificio, che è una cosa forse un po' meno, diciamo, grave di quello che è accaduto nella Valle Bormida, però le dinamiche, Simone, poi sono sempre quelle. Sempre le stesse. Sì, sempre le stesse, ma quello che ho imparato è che è un pensiero, insomma, che mi è venuto in mente. Sì. È importante la narrazione di quello che accade. Se non c'è la narrazione di quello che accade, memoria, racconto, memoria, cioè, sapere che le cose. Si pensi che non sia mai successo. Esatto, sì. E questo deve unirsi insieme per creare una storia. Ci deve essere una storia. In modo tale che è facile capire ciò che è accaduto, perché ciò che è accaduto invece non è per niente facile da capire. Simone Saccucci, che è il Beppe Fenoglio a questo punto di Guidonia ufficialmente, sì. possiamo dirlo, tranquillamente. Cittadini di Guidonia, sappiatelo. Allora, Ilvo Barbiero, invece, ingegnere, il De André, diciamo, il De André, sì. tra i fondatori dell'associazione per la rinascita della Valle Bormida. La domanda che le avevo fatto è questa: sentite anche quello che diceva Saccucci, raccontare la memoria, lei è un esempio vivente di questa memoria e di questo lavoro, ma al di là, diciamo, di voi che state dentro questa storia al 100%, gli abitanti della valle, i cittadini, no? I valligiani, insomma, come vivono questa rinascita del Bormida? Sì, ecco, solo un breve inciso, a parte a questo proposito della narrazione, a parte dell'ottimo spettacolo di Pagella, noi abbiamo una narrazione bellissima e molto valida, per quanto scritta anche da un poeta, che è Cent'anni di veleno di Alessandro Elman, che consiglio tutti quelli che vogliono conoscere la storia del Bormida di leggere. Giusto, è una lettura obbligatoria. Sì, sì. Giusto? Sì, sì, da questo è stato tratto anche un altro spettacolo teatrale che è Fiume Rubato. E quindi, diciamo, essendo stati questi libri e questi spettacli di Pagella, di Pierdicca, tratto dal libro di Hellman, spesso letti e rappresentati nella Valle Borbida, i giovani di oggi possono anche sapere quello che è successo in modo molto efficiente e diretto. Per quello che riguarda i giovani che non hanno vissuto questi eventi, a loro sembra normale, come in realtà dovrebbe essere, avere un fiume pulito, e quindi diciamo quasi non riescono a credere che ci possa essere stato un momento in cui il fiume era come quello descritto, ovviamente molto efficace. Siete stati troppo bravi a fare la rinascita del Bormida, e adesso quasi uno non ci crede vedendo com'è il fiume. Ed è vero che si può tornare a pescare e quindi a forse anche a fare il bagno nell'acqua del Bormida? Sì, infatti. Ora dice non allora, esageriamo. No, vabbè, diciamo il bagno è ancora da vedere. Ecco. Quindi allora, non fate diciamo il bagno nel Bormida, però? Però si può fare la pesca no kill, e inoltre sì, la cosa più importante è che si può ritornare a usare per l'irrigazione. Quindi prima okay, che arrivasse l'acqua nell'Ottocento, anche prima che l'inquinamento diventasse troppo pesante e costringesse ad estirpare le viti, la Valle Bovina, in quanto incassata ed sì, è non distante da Alba, aveva un microclima, un tipo di terreno simile a quello di Alba, dalla produzione del Barolo e così via, e quindi le produzioni certo, siamo, di vino dolcetto tra erano tra questo non l'abbiamo detto, siamo vicinissimi alle zone delle Langhe, che sono zone tra l'altro patrimonio dell'UNESCO da poco tempo, zone straordinariamente importanti per ricollegarci a quello di cui abbiamo parlato anche tutta questa mattina, cioè alla qualità proprio del territorio e del Made in Italy proprio del alimentare. Ivo Barbero, grazie per essere stato con noi, abbiamo celebrato anche noi la rinascita del Bormida. Grazie mille veramente. Grazie e a presto. Buon sabato intanto. Allora, direi che Simone, a questo punto ci puoi suonare un'altra canzone, così a chiosa di questo momento. Volentieri. Credo sia adatta. Si fa a non far morire il fiore, dicono che siamo a corto pure di giardinieri, e a scuola sai neanche più l'ovatta e fagioli. E allora come si fa con la faccenda della cura e delle passioni? Ma poi con la strada come faccio? Chiudi gli occhi presto, così non vedrai ciò che ti cadrà addosso. Ma poi con la strada come faccio? Saccucci è il mio cognome, sì, ma qua in mezzo scordo il mio nome. Come si fa a non far morire il fiore? Come si fa con questo benedettissimo fiore? Io non lo so, non sono mica un giardiniere, ma sul balcone ho l'ovatta e i fagioli, e capisco che basta anche l'acqua del rubinetto per non far morire le passioni. Simone Saccucci, grazie mi per commuovo essere qua con noi oggi. Il titolo di questa canzone, che non era in scaletta? Ovatta e fagioli. Vedete, così la creatività, l'improvvisazione. Avevamo in scaletta un'altra canzone che era, aspetta la ritrovo, e che è molto bella anche questa. Non la trovo. Lo scherzo del destino. Lo scherzo del destino. Poi sì, ce n'è forse un'altra, ma non so se facciamo in tempo a farla. Simone, però, ecco, una cosa diciamola. Chi è interessato al tuo lavoro, ai tuoi spettacoli? Qualche data? Ce l'hai qualche appuntamento? Sì. O sì, come si fare per il tuo materiale, visto che non hai sì, la SIA e non hai un CD per ora? Sì. O ce l'hai il CD? Sì, lo vendo agli spettacoli. Sì, sì, sì. A offerta. Offerta libera. A offerta libera. Come una volta. Esatto. No, il 14 sono al Teatro Sala 1 e insieme a un gruppo storico che si chiama I Gang. Teatro Gang. Sala 1 dove? I Fratelli a San Giovanni, Roma. Ok. Il 28 sono ad Aprilia allo Spazio 47. Poi mi fermo perché comincio a lavorare a uno spettacolo che andrà in scena a maggio con tutti gli utenti della comunità L'Aquilone, che è una comunità per adulti disabili che sta nella periferia di Roma. Che è il tuo lavoro, la tua vera vita professionale, esatto, è questa. Sto cercando di mischiare le carte con tutte quante le cose. E poi a giugno un'altra data, però a maggio c'è questo lavoro. Perché non abbiamo detto nulla sullo spettacolo che hai fatto, il reading con Henry De Luca. Ah, sì. Questa che era una chicca, però vedi, dovremmo parlare nella prossima volta. L'avevamo detto in onda. Poi ho saputo che in realtà Saccucci parte domani alle 11, quindi secondo me potremmo forse svegliarlo molto presto e farlo venire anche domani mattina. Ci proviamo. Allora, cari ascoltatori, abbiamo 20 secondi per dire che vince i biglietti della mostra del FAI a Varese, Wim Wenders. Francesco da Bari, il primo ascoltatore che ha chiamato direttamente dal campo dove stava curando le sue ciliegie. Evviva le ciliegie, la sua radiolina e tutta la storia. Fantastico. Che ci ha raccontato. Bene, grazie ad Andrea Piana che ha scritto insieme a noi il programma, Claudia Schiattone, Miriam Lucchetti in redazione, Daniele Buonamici in assistenza in diretta quest'oggi, Gianmarco Ferronato in regia, e un saluto a Fabio Cantadori. Ciao Fabio, ciao, a domani.